con il suono urbano, stradale, cittadino insano, alienato, animale, l'anima fenale, male in ali, un'aria che fa male, mani in aria quando in fuoco sono lo smoco temporale. Bianco come striscia pedonale, animale urbano, navigare il cuore in vano fa pensare. Girano notizie sul tabloid, ma nessuno sa di noi, dei b-boy che filosofano come Sigmund Freud. Cosa vuoi? Dammi i soldi tuoi, pigli quel che puoi, credi in ciò che vuoi, ognuno i suoi, pensieri bui in testa, vieni su in questa festa, rap che infesta, testa. Che animale strano, che animale storto, vesto stravagante, meglio andante che già morto. Me ne importo, un bel fico secco, sei contorto, sì ma non sono uno stambecco. Ecco, mica un secco stronzo con cravatta e giacca, che fa vedere ciò che c'ha ma è solo gente fiacca. In busciacca tiene l'acca con cui si pettina, per la vacca bislacca che si insemina. Una cretinata metti un'altra cena pagata, patata ingioiellata in discoteca al patapata. Vai a casa, tu vai a casa, vai a casa, vai. Tu vai a casa, vai a casa, vai. Suono urbano, lo strano, piccola città ma spiccolando in vicoli ci arrombiamo. Per frenzarci il quotidiano, passa da una mano all'altra mano. E non ci vado piano, ci do dentro come Roccotano. E un poliziotto a me m'ha detto già sei poco strano. Ti sembri sano? Ma veramente io... Invano, parli piano, ma lui è automa, mica umano. Si crede Dio, invece un nano, sopra un banano. Stile di vita insano, lontano da natura, questo è il ritmo urbano. Frentiamo come cura, ma non si cura un sano. Vivi alla sventura in questo mondo strano. Codice urbano, qui c'è chi si buia, c'è chi fa l'indiano. Diamo una lezione a chi vo fa l'americano. Chi scrive in italiano, ma non pensa in italiano. Oh yeah. Animale urbano, tiridatta, ta ta ta ta, tiridatta. Aio. Cazzo, madonna, cazzo. Beccio, grazie per questa cazzo di base martella, cazzo. Aio.